io una volta ho trovato Aerospeed e sono andato a prendere l'acqua ma tempo fa e ho trovato questa bella valigetta con le ruote, due componenti che si creano l'uno all'altro, la serva che ci sta, me l'ho comprata al volo, cazzo, non mi ricordo, ho portato la cazzata, questa è la struttura che ci sta, e se devo fare qualche lavoretto, me la trascino con me, metto dentro quello che mi serve, e fai due scompartimenti sotto e sopra, ed è nera e gialla. Sì, ma capita, la volta a volte, bisogna girare, lì molte volte rimani a mocca perché dice, cavolo, ci sono dei prezzi spaventosi, ma cose per dire, le batterie, quelle a tampone piccolino per gli orologi, quelle da 3 volte eccetera, la serie per dire ce ne sono 30-35, le paghi 5 euro, cioè, se vai a comprare una di quelle batterie la paghi 2,50 euro, se vai alla GBC, e lì te ne hanno una trentina di batterie di diverse misure, quelle a coso, a bottone, cioè presente quelle piccoline, le pagavi 5,90 euro, mi sembra. Sì, sì, l'ho comprato io lì da poco, cioè sono una ventina ce ne sono, e tutte le misure, piccole, medie, 20-32 mi sa che sia, non mi ricordo comunque, ce l'ho io qua, ma ancora non ho toccato ancora, perché mi serve per il telecomando, la cancello e telecomando la macchina, quindi ho provato una cazzata, sicure cose, più di 5 euro se lo vado a trovare. Sì, lo so, infatti c'era di cose, siccome io sono appassionato di orologi, molte volte ogni tanto bisogna cambiarle, ne ho tanti di orologi, mi comincio e ce la prendo di lì, perché sennò poi alla GBC, magari sicuramente con la GBC sono di marca, sono della Maxell, della Coso, Energizer, cioè marchi superiori, però sai che qua te ne stanno dando una ventina a 5 euro, di 2 euro, 2,50 ne vuole Tonino, dipende dalla batteria. A prescindere da tutto questo discorso, sono bene, ricordami qualcosa, quindi da lunedì ci può uscire tranquillamente senza aver il foglio appresso, a parte la mascherina bisogna avere per forza. Non ho capito da cosa hai detto, scusa Tony. Da lunedì 18 si può uscire tranquillamente senza avere il foglio appresso. Così hanno detto, senza dichiarazione, le mascherine, dice di sì, per il momento sì, che è un bel rompimento di scatole, per me è una cosa inutile. Certo, devi stare attento alle distanze, anche se è tutto relativo, perché non lo sappiamo, magari ce lo siamo già preso, oppure ce lo prenderemo, cioè ce l'abbiamo, non sappiamo niente di questa roba qua, è come un'influenza, magari uno se la prende in modo lieve, l'altro se la prende che si deve coricare se non sta male, non sappiamo nulla. Io dico, col caldo adesso se ne va via tutto e finisce tutto, neanche ce ne accorgiamo, come è successo, così dicono la vecchia spagnola, quella di finire spagnola, che d'estate poi ha finito tutto quanto, come è venuta se n'è andata. Ma guarda, io ieri sera sono passato al chilometro, c'è il mondo di persone, ma attaccati uno all'altro passeggiando, è un casino, cioè guarda i giorni scorsi che era un mortorio, a vedere adesso sembra che sia rinato il Sassari, ma qui poi niente, sono stato attaccato uno all'altro, ma anche io poi di distanza, fatele passeggiate, era un casino. Non lo so, aspetta, c'è qualcuno, avanti che... Scusate, ho pigiato il microfono per sbaglio come mi sono seduto. Volevo dire una cosa a Tonino, no, prima quando ho mandato lo schema a Antonello vedevo questo, nello schema questo display tipo a LED, no? A 4 cifre, ma no, non può essere il display canali. Poi ho guardato la foto ingrandita dell'apparato e quello è l'orologio, l'altro, cioè uno è display canali e uno è l'orologio, allucinante, incredibile questa radio, non l'avevo mai vista. Quella è il nome strano, cioè svizzero. Comunque la fanno anche con altri nomi, Tony, con altri nomi ed è la stessa radio, ecco perché lo schema dovrebbe corrispondere. Infatti gli ho detto Antonello, fai attenzione, controlla che i componenti principali siano quelli, poi te ne accorgi dagli strumenti, da numeri potenziometri, cioè lui deve controllare le sigle sullo schema e le sigle anche dentro l'apparato, capito? In modo che da non sbagliare. Comunque dovrebbe essere quello. E l'ho trovato su Roger K. Vai Robè? Non lo conosco, come si chiama, mi ha detto Wagner 510. Ma c'è su internet? Sì, sì, se metti Wagner 510 CB radio ti compare questo baraccone enorme e al centro c'è una specie di VFO o il clarifier, Tony. Esatto, sì, è così. Guarda Robè, c'è anche un video su YouTube, André Tauros Wagner 510 Base Station do Luiz, questo è portoghese o brasiliano. André Tauros, su questo qua, Wagner 510. Sì, qui c'è quello in foto. E chi ce l'ha questo apparato? Io. Tu, Tony. A me è andato la persona, ma cioè, è venuto la comparazione, non sentivo un cacchio. tutto casino. Ho comprato la tappamenta, provo a cambiarlo, niente. Allora ho detto, Antonio, guarda, si può fare qualcosa, se no glielo ritorno. È dall'82, M22, ma qua c'ha solo 22 canali, c'ha. 40. AM, FM e BSSB, che è stato costruito nel 1982 questo apparato. Yes. Ma è bello perché è strano, capito, come apparato, non è che sia un Rakimi. No, oh, bello veramente, è completo poi, diciamo c'ha una bella linea, io c'ho simile a questo, diciamo, come tipo di genere apparato, il Pace, che ne ha tre di strumenti, lo stesso c'ha l'orologio, i canali, però non ha, come si chiama, vabbè questo non è a frequenza, neanche questo, però il mio c'ho lo stesso bande laterali, però non ha l'FM, questo è più moderno, però è molto più bello del mio, è simile come tipo di apparato, è un incrocio tra il Pace e il Ruiz che c'ho io, il Royce c'ha lo stesso tre strumenti, questo ne ha due. Bello, bello, complimenti, un bel apparato. Tu ce l'hai color argento o color nero? Color nero. Bello, però se ti vuoi fare gli occhi, guardati su questa 4009 e poi mi dici se ce n'è più belli di quello. Lo conosco. Il Superstar 4009 secondo me è il migliore apparato, non ho mai visto, diciamo, meglio esteticamente di qualche HF, sembra il TS2000 della Kenwood. Io tempo fa avevo il Samurai, l'ho conosciuto da... Sì, no, ma stiamo parlando di cose diverse, cerca questo 4009, poca gente lo conosce, non confondiamolo col 5009, 6009, è un apparato da fantascienza, guardatelo e poi mi dici cosa è. Allora, hai detto... Superstar 4009, e poi mi dici che se ne hai mai visto di cose del genere. Io non so neanche se sia stato importato in Italia quell'apparato lì, trovandolo uno a un buon prezzo, quello ci fare un bel pensierino. C'è addirittura due ingressi di antenne quell'apparato. Caspita, ho trovato anche questo, ce l'ha lo stesso utente brasiliano, questo General Electric Super Base. Mamma di turchi, che roba, tutta roba americana, qua non arriva, non è mai arrivata. No, quelle dei polacchi le hai trovate quando sono venuti quelli della NATO, gli americani a Napoli, a Coso, e lì li portavano queste cose. All'epoca, cioè, questa è roba anni 70, Poi ce n'è uno addirittura che c'ha il ripiano, cioè, c'ha la parte verticale e una parte sviluppata in orizzontale, sembra una console da DJ, incredibile, compra 2000 GTL, porca miseria, che roba. Ehi, dimmi, sì, quello lo conosco, quello su due ripiani, dimmi, Tony. È quello argento? Ehi, hai visto? Guardalo bene se c'è un'immagine ravvicinata. È bello, scoperto il tutto. Ma quello è, per certi versi, meglio di un HF, come funziona, hai visto cosa c'ha? C'ha delle cose allucinanti. Sì, c'ha, per esempio, spinta a sinistra, poi il frequentimetro, il coso canale a destra. No, vabbè, la manopola è tipo un keyboard, praticamente. Sì, ma c'ha tre strumenti digitali, non so se l'hai visto, gli indicatori sono tutti digitali, c'ha due ingressi di antenna, è un computer, quello lo puoi attaccare al computer, c'ha l'uscita RS232 per interfacciarlo col computer, è un apparato tutto digitale, bellissimo, non so se c'abbia anche il DSP, però sembra il TS2000 come concezione, proprio un apparato mai visto dal vero, ma trovandone uno, quello me lo prendo correndo perché è troppo bello. E me questo non lo vedo perché sì. Io non so se ci sia in Italia, se l'abbiamo portato in Italia quello lì. Adesso provo io, se lo trovo per fare GPS. Ti sto dicendo, è uno spettacolo, io ne ho visto tanti, poi lo fa anche un'altra marca, che lo faceva, aiutami tu Marco, mi sembra che lo avevi tanti altri, ce lo facevano con due marche col baracchino. Avevo letto il nome, però fatelo ricordare adesso. C'è quello certo. Uranus. Non mi ricordo. Superstar 4009 B10 Master Base Radio. Sì, ma lo facevano anche marchiato Uranus, mi sembra, quello lì. È una cosa da fantascienza, cioè non esistono dei baracchini con quelle caratteristiche, vi fa da 25 a 32. E lo puoi usare sia in sintonia continua che canalizzata. SSB, tutto. C'è anche un altro che voglio vedere se lo fanno ancora, se lo vendono. Beh signori, io me ne devo andare adesso, dai, ci sentiamo magari domani, io faccio corretti. Ciao Torino, sempre un piacere ascoltarti, idem per Marco, dai, saluto gli eventuali amici qua sul canale 10. Se arriva Riccardino dopo le polpette fateli compagnia, perché lui stanotte dovrà far tardi, che deve fare dei collegamenti, che c'ha l'antenna nuova, dai, ciao ciao, corretti da parte mia. Ciao Rebe, aspetta. Cosa hai detto Marco? Allora ho detto aspetta. Allora. allora conosciuto come MEICOM BS27 e Stabo, credo sia tedesco, XF9082. Sì, Stabo tedesco, sì, lo Stabo era tedesco, hai ragione tu, mi stavo confondendo io. Comunque, ottima radio, dai, vi lascio adesso, ciao. Io, ciao Robè, dai, buona serata, buon tutto, Io sto cominciando a perdere quota, me, la biocco, l'ora della biocco, Vai Tonino per i saluti. Ciao Robè, buongiorno, alla prossima, sarebbe. Sì, me l'ha provato un attimo, vai. Niente, io questo momento che mi sono fatto mi sono pentito una cosa, ragazzi. Anche fare un po' di sapretto devo fare a 40, ragazzi. Roba bella, caspita. Peccato che, vabbè, tutta roba da amatori, anche che se la trovi costa, questa roba che ho nominato poc'anzi, no? E poi va tenuta funzionante perché certo sono certi sono allucinanti, ingombranti, proprio una cosa. L'America, tutto grande faceva l'America, le macchine, i camion, le autostrade, tutto grande, i baracchini pure. Comunque è bella la stazione Pizza, meglio di una mobile, capito perché? Più bella in casa. Un'altra cosa, dai, non c'è paragone. Naturalmente gli americani sempre AM/SSB, l'FM è una cosa più europea, molti di questi apparati hanno AM/SSB ma niente FM, che lì non la considerano proprio. Che pure FM, ti dirò, a me non piace. A me un po' piace, anche per limitare eventuali guai, eventuali per evitare di splatterare cose, una cosa molto contenuta, però in Italia non c'è la cultura, nemmeno in Spagna, diciamo invece Francia, Germania, tutto il nord Europa in FM. Pensa che in Inghilterra Tony erano messi peggio di noi. Cioè la 27 autorizzata dallo Stato, da noi mi pare l'hanno approvata nel 72 o 73, lì l'hanno approvata nell'81, cioè prima si era illegali chi lo voleva usare in Inghilterra fino all'80-81, poi insomma dall'81 in poi l'hanno liberalizzata, però erano solo in FM, lo sai, 40 canali solo in FM e non era la canalizzazione nostra, era da 27 601.25 a 27991.25. Poi da pochissimo, mi pare dal 2013, e poi è diventata effettiva nel 2014, hanno fatto una legge in Inghilterra e hanno autorizzato i canali nostri in AM/FM e SSB, tutto quanto. Quindi loro possono usare tutti e due i sistemi adesso, sia la loro vecchia canalizzazione che è in alto e sia la nostra in più con tutti i modi di emissione. Poi vabbè, i piratoni li usavano anche prima i canali nostri e altro che. Comunque la banda cittadina è stata tornata in America, che io sappia, il 73-51, che si rinota sempre il 7 marzo 1951, e poi passa per l'Italia per la avanti. Sì, in America erano avanti in tutto, comunque erano tutto lì. Anzi, pensa che avevo letto che la prima banda CB era stata studiata in UHF, anche abbastanza alto, tipo 4,70, una cosa del genere. Infatti lo sai che in Australia attualmente dovrebbero avere ancora la cosiddetta banda CB UHF che è sui 477 MHz. Ma comunque l'importante è farsi sentire. Comunque troppo QRM come frequenza pure, dai. Almeno sono stato la frequenza questo QRM è zero, allora sì. Allora bisogna salire. Anche VHF bassa, tipo 43 MHz, però quella vabbè, quella è solo per scopi lavorativi. Ha fatto anche una brutta fine quella banda, niente più apparati, niente più antenne, d'altronde adesso chi ne sui taxi ci avranno tutti GL o roba del genere, non useranno manco più radio su 43, una volta addirittura le ambulanze le hanno avuti 43 MHz, anni fa. Bene, bene, bene. Bene, cioè male. Sì, perché da 27 a Piazza la Mandezza. Io mi ricordo quando abitavo a tempo fa vicino ai giardini, vicino a una apertura praticamente, mi entrava anche il marcore di terapia, sentiva fa un casino, lo spinto se ne sentiva. Guarda, è una cosa micidiale, e poi diceva, ma per questo è più pulita, ragazzi. Quella su canale 20, te lo ricordi, fatemi casino, pazia. Un giorno l'ho sbagliato, ogni volta ti danno il bus, fondo scala, con un lineare. E io, rompeva a mano e mano quel marco di terapia, qua, povero Smitter, qua. E mi rompeva le palle anche in parecchi canali, sotto e sopra. Esatto, poi sono scesi in 26 mega, 26 e 700, se non mi sbaglio, era. Ma prima era 27, una cosa allucinante, ogni abbattimento, vabbè, dove abitavo io, gli altri lo ricordi. Abbattimento zero, io, un bel niente, cosa non ne poteva la vita a cazzo, no. Vediamo si chiama quella tipa che modulava, che c'aveva la doccia calda, ciao carissimo, luce del mattino, ogni abbattimento esibiliava ogni volta, e per la via neanche 500 metri in aria. E luce del cartino chiamava. No, di ripeto anch'io ero vicino a questura a Tare, certo, ma lo so che dovevo preparare a male, perché lì vicino ai giardini c'è anche il cazzo ospedale, voleva fare l'ottorino in conguato, e poi sono degli strumenti che mi entrava, e come ci entrava? Lo so, aspetta un secondo. Sì, era un vero e proprio casino la Marconi terapia. Era tipo frustate, no? Sentivi. Allucinante. E in HF all'epoca c'era il Russian Woodpecker, quel picchio, quel radar maledetto enorme, Buga 3, come si chiama, quello però dava un effetto tipo elicottero, era molto veloce come suono, proprio sembravano le palle dell'elicottero, ma era una maledizione, poi noi europei, gli americani tanto quanto, ma noi ce la trovavamo a un passo. Chissà dimmi dove posso trovare un po' di frutti e buone. Quanto buone, ma cuffie normali stereo da usare al baracchino con l'adattatore mono. E io potrei dire dovunque, se ti accontenti di Sony, Philips, marche commerciali, a meno che tu non voglia Sennheiser, roba già più raffinata, allora devi andare su internet, se no i soliti, un euro, troni, ma buone relativamente, roba professionale, e chi lo sa, a Sassari, non so chi tratti roba professionale. Io sono capito per caso a Fusaro, non ne abbiamo. Ah, cioè non hanno un paio di cuffie stereo? E caspita. Vabbè, usavo le Sony, ma per cuffie non ne usavo tanto. Io avevo l'adattatorino da stereo a mono, no, per il baracchino. Non lo trovo più. Quindi anche volendo usare le cuffie, cioè per sentire da un lato solo non è bongo. E io, niente, io ho preso sulla console dello spinotto, il jack grande e piccolo. Mi devo andare, ho media volta, va bene, no? Tony, non ti sento bene, parla più lento. La media volta dovrebbe avere le cuffie. Media world, sì, cioè cuffie anche per normali stereo, per radio già le trovi, poi appunto dipende che qualità vuoi, io roba costosa non ho mai preso, io quando compravo cuffie erano sempre Sony, Philips da 20, 30 euro, ma non sono andato oltre, avvi la forza. Poi a me mi piacciono quelle cuffie che hanno tipo gomma piuma, insomma che non ti prese, ma ti fate mettere gli orecchioni, altrimenti quelle che stai bene con gli orecchi. Sì. Beh, un po' di tutti i tipi dovrebbero averne ancora. Io lo usavo per il lettore MP3, invece sai quelle non mi piacciono, quelle che entrano nell'orecchio, quelle che hanno quella specie di gommino sferico che finisce dentro l'orecchio, quello non mi piace, mi dà fastidio, non mi sembra neanche troppo igienico, dai. No, quelle le odio anch'io, quelle cuffie normali basta. E dov'è? Facciamo una scappata, dai. Pomponio, ancora attaccato ce l'hai. Il lineare sì, non si era rivelato, non si è incendiato, quindi a porta adesso. Cerca di fare quella farata lì, che è un lauputa, c'è lo schema, me l'ha mandato Marco, quindi adesso è più facile da fare. Capito, sono l'integrato che devo toccare, non posso andare così alla cieca, capito? È come essere andare a pescare, cazzo, quel che c'è il fondale che è nero. so cosa, da dove partire, in modo da avere, potrebbe essere anche un condensatore integrato magari, da cambiare, capito? Adesso la mattina prima di tutto provo con l'ipotensiometro, vedere se mi appene il valore giusto, lo lascio così com'è e non c'è problema. Se poi c'è l'integrato chiedo quanto viene, eccetera eccetera, ma adesso non so come fare, capito? Ok, ho aggiunto che c'è molto spesso su quell'integrato di da cambiare. Deve cambiare cambio perché Antonè. È un peccato, avevano così guardato una tutta nervosa, guarda. Lo so. Aspetta un secondo, arrivo subito, sto facendo una cosa veloce. E io. Avanti, Marco, io mi sono steso a proprio per letto che stiamo dando un po' di riposo. Pomponio, guarda, adesso per Pomponio io ho dovuto abbassare il volume, io ho detto tante volte, tante volte devo alzare, comunque la radio è come un po' cu, non è chiarissima a me, certe volte devo accostare l'orecchio all'altoparlante, infatti se potessi migliorarla, magari farla un po' più, con toni un po' più alti, toni. Non so che microfono sia quello. Beh, detto ciò, rabbiocco, mi sto davvero prendendo colpi, cioè penso che devo ripristinare la stampante, devo cambiare tutti i colori, le cartucce, mamma mia, mi sa che lo faccio domani, non a Giugana. E non li va allora, no, sto usando un microfono normale, c'ho pronto San Dottore, Sagno, Calcio Vigili, sto guardando per adattare il telepitrevi da tavolo, tutto qua, detto, no, vado poco gli amici, poi quando ho finito, allora, vediamo cosa faccio. Antonè, mi raccomando, cioè, verifica, te l'ho detto, no? Che sia effettivamente quello lo schema. Tanto se tu sai interpretare lo schema elettrico riconoscerai quali sono le sezioni, i componenti, no? Perché hanno detto che comunque hanno nominato quell'apparato, hanno nominato l'apparato che è uguale a quello 510 al Wagner e lo schema dovrebbe essere quello. E per fortuna che si trova. Antonè, basta cercare un po' però, grazie a Dio già ce l'hai Google, no? Io l'ho trovato in 2 minuti. Tu avevi detto che non si trovava, Antonè. Perché c'era scritto così, c'era scritto. Se non si trovava. Capito? Tutto lì. Mio Antonè, non mi perdo le viti, Che trovato. C'era altro che perdo le viti. Comunque Marco, io non so se sono andato stasera, la temperatura è calata un po', io sentivo il freschetto. Perché è ventilato. Mi pare che tuttora ci sia del vento, ho sentito il rumore del vento. E ho visto anche che verso Alghero era plumbeo il cielo, ho detto ma non è che piove pure. Ho detto vabbè se piove, pazienza, lasciamo piovere. Porca miseria, non so nemmeno cosa senti voi oggi. Ok, quasi quasi mi. Toni, Antonello, io mi ritiro in buon ordine. Così comincio piano piano, intanto non dormo comunque, cioè tu conta una cosa, tu mi viene la biocco verso quest'ora, no? Verso l'ora del film, poi passata una certa ora, fino alle 5 non c'è modo, anche con pastiglie, nulla, purtroppo è colpa del vizio che ho preso io di alterare l'orario normale, no? Cioè alzare tardi, mangiare tardi, cenare tardi. E poi qualche preoccupazione, sai, genitori non più giovani, eccetera. Ma io cenare 8:30, no, perché non parto. Poi mi appoggio a letto, guardo la televisione, le 11:30. Mi addormento e poi mi sveglio ogni mattina 3:30-4, e non torno più sotto. Alle 5:30 mi guardo la televisione, alle 5:30 mi alzo, mi faccio il caffè. E rimango sveglio tutto il giorno. Cioè allora che mi addormento io, ti stai alzando e svegliando tu, caspita, proprio agli antipodi. Ho questo vizio qua, purtroppo, io sono anche in malattia, e questo è il disco casino. E quindi, siccome faccio questa risata magnetica, la faccio fare nulla, perché andare a sedermi da provarlo a meno che mi faccio mettere centralista perché sono usato, e così mi cresce legato a voi. Antone, io per i saluti riprendi così menando, dai. Sì, caro, dove stai andando a piatti? Quel lugar stai andando? Il e ancora sono per il caffè. Che poi mi, Roberto ha detto che non dorme. Io che lo prendo o che non lo prenda, così come la pastiglia per dormire, che la prendo o non la prenda, non dormo comunque. Poi alla fine, sul far del mattino, il fisico crolla per forza di cose e alla fine mi addormento. E adesso mi bevo questo caffè, questa fetenzia di caffè. Sta poco parte, ma per il caffè non te l'ho bevuto il cavi. Ehi, ma mi sono bevuto anche quasi un litro di Coca-Cola, uno schifo, cioè... Io ho già mangiato, no? Poi ho trovato, avevo comprato questa vaschetta di insalata capricciosa, no? Tipo la russa, no? E tutto maionese, praticamente mi sono mangiato tutta la vaschetta senza pane, ma disgustato, poi bevendo Coca-Cola presso. Uno schifo. Stomachevole, a me la maionese già non la mangio perché mi è rimasto lo stomaco. Faccio quelle insalate russe, non le prendo mai. Un tempo si mangiava, però assaggiava un po' perché mi disgustava per troppo maionese, ma è già un casino di anni che non le compro più perché non mi piace. Comunque era da mangiare col pane, cioè tutta roba da ecco un panattico, e io invece no. Pucci, come mangiarsi cosa ne so, la Nutella cucchiaiata senza il pane, poi ti disgusta alla fine. Vabbè signori, dai, correte esecutivo, mi accendo la TV, sta la stampante già può aspettare domani. Che tanto devi fare, poi devi fare l'allineamento testine di nuovo quando cambi le cartucce. Oh, che palle. A domani, sempre a domani, tutto anche a dopodomani. Ok, va così. Ciao, buon condizionamento, carico utile, vado a farai. Ma le prossime, avanti, buon condizionamento. Ciao Marco, ci sentiamo, le prossime, facciamo schiattare il punto di petito del 5G, vediamo se si lamenta o domani mattina. Almeno sto pompando con 130 watt, vediamo se lo occupi anche a loro. Sono da me, io che a loro penso, senz'altro. Se li faccio funzionare mai il ripetitore, diciamo, a 50 metri da casa. E invece io a te come ti arrivo a fare? 9,20 a picchi quasi 25. Abito, va bene, dai, non me l'aspettavo. Se avessi avuto il Gigetto sarei arrivato minimo 9,30 qua. Avanti, in funzione di Gigetto. Ha fottuto anche a lui, Gigetto. Gli ho telefonato, gli ho detto, cazzo, avete un corto, gli ho detto. Ecco perché non funzionava, mi sono accorto per sbaglio, perché mi è venuto il dubbio. Ho lanciato il cavetto nuovo, tac, immediatamente ha funzionato, gli ho detto. Ma ormai non ho staccato nulla, gli ho detto. Ho preso, ho chiuso, adesso... Domani quando vado a fusare, mi piglio la lampadina, la lente. E se me penso per te, e così si è a posto. Mi vedo a video, mi viene, cazzo. Sì, sfortunato tu, cazzo. Puoi tirare qualcosa a lui, ma ancora non funziona, cazzo. Ma tu tre cose da pagare un po', tutto. Ma scusa, quello che tu c'hai, dietro c'è un pulsante, ma trovato 10 watt, giusto? Sì. Io, il mio uccio 38, vado dietro. Quelli intruttore là, non l'ho mai visto, non ce l'ho mai esistito prima. No, tu c'avevi il modello vecchio, che c'aveva sopra il tunnel un coso, una lampadina rossa c'avevi. I primi erano così. Uguale a quello, Antonio, uguale, con lo svitter, si accendeva anche il coso, il pulsante luminoso, uguale, non fa una grizza. Però l'interruttore dietro non c'era. Ah, no, l'avevo fatto dopo quello per i 10 watt, cioè 5-10 watt, sì, è stato fatto all'ultimo. Infatti, ma vedo che si può mettere a posto per l'affare di Raita, perché ero così contento, perché l'ho preso perché mi piaceva, la verità, mi è piaciuto, così, proprio chiusi. fatto solo, ma c'è contatto, ha avuto la sempre sul 10. Ma scusa, me la avevo fatto canale. Lo so. Perché non sono nuovo su 10. Cosa c'è la popolazione? L'ha attaccato il VV2001 nella K3, ma saliva la sicella. Solo faceva tan, poi l'ho spento, stavo provando, c'era Fabio, c'era poi Simona e ho dovuto fargli la cena, capito? E quindi ho dovuto mollare tutto, adesso in seguito me lo controllo, c'è stata la cazzata, perché lei funziona, scatta, quindi c'è qualcosa che di qualche fesseria di quell'ineare a 600 watt. Comunque se come radio fossato non mi appare. Beh, logico che c'è fatto, aspetta che sta con il salerta, vediamo se chiarisce. Allora adesso 1, 2, 3, 4, 5, 6 com'è? E io sono ben prefissato. Adesso ben prefissato, no? E proprio tu che calcino che. Allora sì che pompa. Guarda la schiena adesso. Aspetta un secondo. Aumentato il segnale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 40. Ehi, c'è una metretta qua. 200 watt, sono 220. Così come senti? Così diretta, ecco cos'è il problema. Ecco, adesso è diretta, guarda un po'. E se mi porta, sì. Molto forte, so. Lo smette, lo oggi, ma... Adesso lo sto pilotando con 5 watt. Che mi è arrivato quella fare stamattina. Ah, perché non lo provi? E sto usando quello. Beh. Ora, 2, 3. Allora, qui non è l'originale, quella parecchia è stato modificato. A proposito, dietro c'è una manopola. Ti ho chiesto, l'ho telefonato, ma cos'è la manopola? Dice, veramente non lo so, c'è la manopolina a potenziometro. Come l'eco, giralo appena. Beh, così, 1, 2, 3, prova. Così c'è l'effembero, c'hai. Gira da parte. Ma cosa c'è? La manopolina? Cosa hai dietro? Sono entrato la mano dietro il bubile, perché mi sono chiamato al telefono, un attimo, Antone. E gli occhi. Oh, Antone. Dimmi. Quindi tu dici di mettere l'eco e provare con la manopolina? Sì, esatto. Allora, adesso ho inserito l'eco. Aspetta, poi a mettere dietro. Adesso ho aumentato, 1, 2, 3, cambia qualcosa? C'è un effetto che vende, lo c'hai, gira la mano con l'altro fianco. Adesso è tutto girato, cos'è? Perché stai fischiando? Ah, ma non è che... Prova, no? 1, 2, 3, prova. Vola. È l'effetto più basso c'hai, sembra tipo colto me. Sì, vabbè, adesso più lento, ecco, leggermente più lento. Ma, lo tolgo, dai, così va bene. Sì, va bene, avevo messo la manopola nella scheda originale, meno male, non è colto. Però il bip l'ho cambiato, strano. Comunque è nuovo, ho fatto un affare grande. Beh, io così sono contento. Adesso ti sei messo il gigetto, quello che sono, come quello che sto usando io adesso. E sei a posto. Adesso io questo sto facendo scaldare tutta la sera. Se mi sta cucendo le uova, ragazzi, la valvola. C'è la pompa e la valvola, cazzo se tuba. E io adesso devo tentare di stare più tranquillo a tavolo, c'è tutto pronto. Sto scaldando lo scaldatore e così dovrebbe pompare un pega. Già è vero. Andare. Ho baciato quella manopolina lì. Quando metto quella lì allora mi entra in desco, capito? L'ascolta è quello, ti ascolti anche la voce quando parli. Sì. Allora è pall'ascolta. Cosa? Si chiama pall'ascolta quello, capito? Lo usano per quando usano l'effetto tipo colto, mi capito? Mi sentite la voce. Ma che cosa mi ha fatto a me sentire la voce? Ma... Che cazzata! Lo so, aspetta un secondo. Sto guardando sulla lista e ricordare quanto costa la raggiungere quello mio, sapere se c'è. 2020 Ah, c'è ancora qualcosa che è mutandile con Mox e con Pisello. Si dice con la picchiriola. Comunque scalda, allora io mi sono trovato due ventole di PC 12 volts, mi sa che le metto qua, che vado a raffreddare. Mettile lì. Però al coperchio dovrei fare due fori per attaccare bene, eh. Non credo, ora. Ci mancherebbe. Aspetta, cosa cazzo è questo? Ah, una calzetta. Un cartone, cazzo, scherzo che attivo me. 17 centimetri, cazzo, fuori, cazzo. Ma che quello vedo, cazzo? I cinesi, cazzo. Che è successo? Ma cosa stai qua? Ah, cosa vuoi tu fai? Quando togli il microfono non sento niente, Antone. Aspetta. Stavo guardando il sito di AliExpress, hai capito? Poi c'è roba cinese che vendo. Ne vengo che c'è molto chi vi fa credere. Comunque ti avete parte un momento, metto l'altro sistemato, pure che c'è un casino lì. Sono in salone, non sono in camera di mia nipote, capito? In camera di mia nipote c'ho tutto. Beh dai, io mi cerco di attaccare questo microfono, Antone. Ehi, d'accordo, ok. Già ci sentiamo. Ciao, fammi sapere domani, dai. D'accordo, ok. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ora, ora, ora. E adesso c'è qualcosa, Tino? Adesso vai bene, vai bene. Sei sceso appena di una tacchetta. Poca roba, però va bene. Tira, Torino, un altro, avanti. Ciao, Tino. Com'è la radio? Andante, devo essere sincero, Tony, non è una delle migliori, cioè, non è né amplificata, non so. E adesso com'è la radio? Aspetta. 1, 2, 3. Un po' così, barattolosa, però un po' cupa. Però è la tua modulazione, la tua timbrica di voce. No, ma è il microfono ormai sto usando, Appunto, un microfono normale è la tua timbrica di voce, non è che non è amplificata, non è forte, non è prepotente, capito? Va bene comunque, chiara. Tino, guarda qua adesso come la radio, chiara? Adesso è migliorato al 100%, Antonè. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sono modulazione quasi 100 watt con picchi a 120. Aspetta un attimo, devo accordare, eh. Aspetta un attimo. Cazzo, è un po' di casino, da cazzo. Quasi stava innescando. Ecco, adesso va bene, guarda un po'. È migliorato tantissimo. La radio è molto amplificata, bella, comprensibile, è aumentato il segnale, è chiara e basta, non è in saturazione, se si è attaccato va bene. Sì, sì, sono attaccato, sono proprio attaccato. Sto usando il BV 101. Ho 1200 watt dell'apparecchio e sono quasi, quanti posso, penso di essere 4 watt e mezzo, forse anche di meno, mi la verità. Però ho eliminato la saturazione, che forse, aspetta un po', potrei anche sollevare qualcosa in più. No, è troppo. E basta. Ecco, guarda un po', dovrebbe andare ancora bene, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 120 watt, ma picchia 200. Guarda, per me va bene, Antonè. Il segnale, diciamo che non hai una tacchetta di appena di modulazione, dai, non hai picchi esuberanti, però la radio va bene. Ah, ok, se non è stato va benissimo, ora mi piglia conto Mino che sto parlando un attimo con Giuseppe al telefono, e tu salutate a te anche a Torino, Giuseppe Leoncino. Yeah, salutalo, ciao, ciao Giuseppe. Bene, Torino. Ciao, ma poi si saluta a Bidoncino. E allora, ma tu che dove senti? Io sono periferia della Peroce, vai. Uscita la Peroce, andando verso Patano, ecco. Vabbè, gli aerei non siamo distanti, allora. Caspita, la sera vanno 9:10. No, c'è coperto, io sono in alto. Vabbè, io non ti arrivo lì. Prova. Guarda un po'. Allora, io vado fuori l'apparato, 9:20. Andavi, io voglio allora. Perché ero sono quelli più Tony. E sono anche in campagna, anche in cavolo poi. Una e mezza stazionaria. L'ho piazzata, provata, va bene, perfetto. E a cosa stai utilizzando? Il tuo vecchio apparato? Sì, magari. No, vabbè, io ho cambiato. E vabbè, comunque, anche lo piano piano già. Ci rimettiamo in sesto, sì. Sì, sì, vabbè. Ma no, io ne ho preso uno nuovo, diciamo che non l'ho pagato a prezzo pieno, però era in scatola, era diciamo nuovo, comprato, l'hanno utilizzato forse una o due volte, poi l'hanno conservato in scatola e poi se ne sono voluti disfare e allora ne ho approfittato e me l'ho preso. Ho risparmiato una cinquantina di euro, diciamo, perché nuovo costa circa 180 euro, io ho pagato 130, ma ne vale la pena, diciamo, perché la radio era una vetrina. Niente, io mi sono costruito un mobiletto per mettere tutto dentro, così, me l'ho ordinato. Avete un casino a fili filiti che ci vedono fili filiti, boh, lo odiate. No, io sono ancora mezzo in campeggio, perché ho un mobiletto con le rotelle, diciamo, le radio si vedono bene, i fili sono dietro, però quando voglio modulare me lo metto in squadra con la scrivania, diciamo, perché rimane in linea tra scrivania e se il mobiletto della radio, però quando devo modulare me lo metto a L, mi faccio la stazione, diciamo, la utilizzo con la mano sinistra e con la destra per dire vado col PC, capito? E invece ho costruito un mobiletto, ci ho messo anche le ruote perché pesa 40 kg, alto 1,20 per 90 e profondità 30. Caspita, va bene, va bene. Guarda, se senti qualcuno che vuole un bel popolare, circa 220 watt, lo sto prendendo con due valvole. Mi porto? Io lo vorrei dare non meno di 200 perché se li vuoi tutti, non è che è anche 21. Se sento qualcuno, perché a me basta che arrivo così, io va bene, dai, no, le metto lineare, anche se non ho nessuno vicino che disturba, quindi, ma non mi va. Ma infatti lo voglio dare, lo voglio dare perché anch'io non è che non ne faccio niente, ho anche un B300 nuovo da vetrina, anche quello devo fare fuori, se riesco a farlo anche lui, quello di macchina però, quello lì lo voglio dare sulle 130. Però io macchina parati, non ne metterò mai più, un tempo si rinunciava però, finito. Va bene così, liscio liscio, arriva a Sassari, anche troppo bene, guarda, non me l'aspettavo. Sì, andava bene, andava bene. Antonello, beh, sei tornato, Al telefono con bidoncino, Oh, sì, io faccio per X, va bene, te lo sei accesa. Guarda se va bene questa radio. Ciao. Avete parlato in due, esattamente. Marcolino, ciao. Ehi, adesso faccio cuore X, dai. Ci sentiamo, Tino. Ciao, Marcolino. Qua era, è comunque acceso, quindi io sto vagando da una camera all'altra, non sono da tutti e non sono in lotta comunque, dai, ciao. Vabbè, non è che c'è fastidio, Marco. Bene, bene, ciao Torino, ciao. Eia. No, ero fino a quant'è, mezz'oretta fa, poi mi stavo abbioccando. Mi son mosso per svegliarmi un po', dai. Ciao T, buona serata, mi pare c'è Pomponio che sta vagando tra una telefonata e una bionda e l'altra. E buona serata, dai, a domani. Va bene, ciao Marco, ciao.